Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, è un giovedì ma è come fosse lunedì, nel senso che dopo una serata di campionato come quella di ieri sarete voi con i vostri interventi a orientare e ad arricchire il programma di oggi. La differenza è una, e cioè che la partita clou deve essere ancora giocata. Ovvio che ci sarà spazio quindi anche per la vigilia di Genoa-Juventus in programma stasera. Marassi alle 20.45, Marassi che tra l'altro tra due giorni e poche ore, alle 18 di sabato, ospiterà anche il match clou della prossima giornata di campionato, la sesta, visto che sarà in programma Sampdoria-Inter. Tutto questo e altro ancora non prima di aver reso omaggio a Maurizio Laudi, scomparso stamane a Torino all'età di 61 anni. Maurizio Laudi era un magistrato di alto profilo, attualmente procuratore della Repubblica di Asti, dopo aver ricoperto, dopo aver diretto la direzione distrettuale antimafia di Torino, aver coordinato il gruppo che si occupava di reati di terrorismo e di eversione per tanti anni. Nel mondo del calcio, Maurizio Laudi era particolarmente conosciuto per essere stato per 12 anni, dal 94 al 2006, il giudice sportivo della Lega Nazionale Calcio. Il cordoglio della Lega è testimoniato dalle notizie di agenzie che sono state battute. C'è stato un intervento di Giancarlo Abete, presidente federale, come presidente della FIGC a nome di tutta la nostra organizzazione. Ha detto Abete: voglio rivolgere alla sua memoria un pensiero di forte gratitudine e di stima. Laudi è stato un magistrato di alta capacità professionale e di grande spessore umano. Nonostante il suo impegno in vicende giudiziarie di primo piano nelle cronache italiane, non ha mai fatto mancare il supporto della sua competenza e della sua passione in ambito sportivo. Attualmente Laudi ricopriva ancora in seno all'UEFA il doppio incarico di componente della commissione di disciplina e di delegato per le competizioni internazionali. E tra l'altro, con la scomparsa del giudice Laudi, a Tempo di Sport perde un fedele ascoltatore che da giudice sportivo in passato spesso era intervenuto in questa trasmissione per spiegare, per chiarire, per puntualizzare alcuni aspetti legati, ricordo, soprattutto alla prova televisiva quando era stata introdotta nel nostro ordinamento calcistico. La serata ha visto il riscatto dell'Inter dal punto di vista qualitativo, non certo da quello dei risultati. Milito ha migliorato ancora la sua media gol sbalorditiva, stiamo parlando di 29 gol in 36 partite di Serie A, siamo allo 0,81%, che è una media altissima. La Sampdoria ha confermato la sua idiosincrasia fiorentina, perché l'ultima sconfitta della squadra genovese della Samp risaliva al 17 maggio scorso, 0-1 proprio a Firenze. Poi c'è il ritorno in gol di Božinov in Serie A dopo 3 anni. Totti è arrivato a 2 gol da Batistuta, 182 a 184, e quindi ormai ha nel mirino il decimo posto della classifica cannoniere di tutti i tempi, ma con ampia facoltà di andare oltre e di salire ulteriormente questa classifica. Per la Lazio è la terza sconfitta consecutiva in casa, e qui mi sembra che come campanello d'allarme sia piuttosto pesante, perché 0-2 con la Juventus, 1-2 col Salisburgo in Coppa Europa e ieri la sconfitta 2-1 con il Parma, che a questo punto, al momento, dopo la quinta giornata, è certamente la squadra sorpresa, la squadra con il miglior rendimento in assoluto in Serie A, se si calcola che è una neopromossa che arriva dalla Serie B. 5 partite, 10 punti sono una grande media. Poi ci sono gli incidenti di Bergamo, piuttosto gravi, poi ci sono altre notizie di giornata. Io comincerei a ripassare gli spunti principali della serata di ieri attraverso i commenti di alcuni protagonisti, aspettando, ripeto, i vostri interventi. Comincerei dalla sconfitta del Milan, perché è vero che ha perso contro Inter prima e Udinese poi, ma insomma due sconfitte in 5 partite cominciano a essere tante. Il distacco in classifica, sia pure dopo 5 giornate, è significativo, perché siamo a 7 punti sui 15 disponibili, ma soprattutto la sensazione è che la squadra non funzioni, la squadra faccia molta, anzi troppa fatica a far gol, visto che parliamo di 3 gol segnati in 5 partite, 2 dei quali nella prima a Siena. Quei 2 gol furono segnati da Pato, tra l'altro Pato è praticamente scomparso dai radar, ieri sera sostituito per disperazione da un Ronaldinho, tra l'altro invece tonico per quello scampolo di partita che ha giocato, in cui ha creato o comunque ha provato a creare più situazioni pericolose di quante non ne fossero state create sino da allora, eccezione fatta per una traversa sfortunata di Nesta. Sentiamo Leonardo. Oh, sinceramente credo che Milan ha fatto una buona partita. Siamo partiti molto bene, messi bene in campo, sicuramente abbiamo commesso un errore, abbiamo preso un gol e lì sicuramente è stata un po' più difficile la gestione, che credo che Udinese si è proposta molto a fare quello che ha fatto anche dopo, e vincendo è diventato più facile, con contropiede, giocatori veloci davanti. Credo un secondo tempo molto buono, sinceramente abbiamo creato due o tre occasioni che credo che il pareggio ci stava, e purtroppo sicuramente la sconfitta alla fine un po' brucia le cose positive che sono state fatte. Se andiamo sui reparti, forse quello che è mancato oggi è il guizzo finale. Il guizzo finale, parliamo di gol, debuttarla dentro, quello è che è sicuramente mancato. Questo è un dato oggettivo. Questi sono stati i commenti a caldo di Leonardo. Poi pare che chi l'ha poi raggiunto sul pullman della squadra dopo un po' di tempo abbia trovato invece un Leonardo ben diverso. Certo, di là dal vetro c'è oggi un milanista doc che alle prime parole di Leonardo, che farei forse risentire se fosse possibile, farei sentire solo l'inizio dell'intervento di Leonardo, mi pare che mia... Vai. Oh, sinceramente credo che Milan ha fatto una buona partita. Ecco, lì è, devo dire che il gesto di là dal vetro non è stato da parte di un milanista doc, non è stato dei più, come dire, insomma, avete capito, non è stato dei più sobri, ecco, mettiamola così. Da Genova ha chiamato già Claudio, buongiorno. Buongiorno cara. Dica. Buongiorno cara. Senta, io volevo parlare della partita di stasera, insomma, sapere una proiezione anche sua su come può essere la partita, in considerazione anche delle assenze che ci possono essere, cioè che ci saranno nelle due squadre. Cristo e Juric da una parte e sicuramente Diego e non so se Melo e Thiago dall'altra parte. E poi una cosa su ieri sera. Secondo lei il gol di Milito con la maglia del Genoa, il guardalino l'avrebbe annullato? Grazie, buona giornata. Grazie a lei Claudio, non lo so, oppure sì oppure no, cioè sono battute facilissime, se permette queste, anche perché sinceramente la sensazione del fuorigioco era istintiva, però è anche vero che era una di quelle fasi all'incrocio in cui c'è uno che sta scattando verso la porta e l'altro che scatta dall'altra parte. Quando si rallenta, quando si immobilizza il fotogramma, si vede che c'è una gamba intera di Milito che è oltre la linea ideale, ma insomma stiamo parlando veramente di centesimi di secondo. Diciamo che ho visto concedere i gol in fuorigioco più netti di quello e ne ho visti invece segnalare di inesistenti più netti, non so come dire, non mi è sembrato uno di quegli errori da matita blu, un errorino da matita rossa a parer mio. Andrea Della Valle non è più il presidente della Fiorentina, ad annunciarlo è stato Giovanni Montagna, avvocato e consigliere della società Viola, al termine del consiglio di amministrazione straordinario che si è svolto stamane a Firenze. Lo sostituirà temporaneamente l'attuale vicepresidente Mario Cognini, anche se, ha specificato Montagna, un nuovo presidente non sarà nominato. Per la successione ad Andrea Della Valle alla presidenza della Fiorentina si era fatta ieri da parte di alcuni organi di stampa, io l'ho sentita alla RAI per la verità, si era fatto il nome di Enrico Mentana, che stamane ha così commentato l'indiscrezione: è una totale scemenza, non ho capito proprio come possano circolare certe voci, bastava che qualcuno mi chiamasse per una semplice verifica e gli avrei risposto che non era vero e che non aveva senso questa indiscrezione. Chiamato Angelo da Venezia, buongiorno. Salve, signor Garanzini, buongiorno. Senta, io non capisco quasi nulla di calcio, mi piace così guardarlo ogni tanto, così, ma solo ai mondiali magari, non ho nemmeno televisore, per cui ci capisco ancora meno, ecco. Però mi viene da chiederle questo, io sono sempre stato tifoso del Catania, perché sono nato da quelle parti. Sì. E quando ero bambino lo seguivo, insomma, era stato anche in Serie A, così. Io vorrei sapere adesso da lei, che lo saprà senz'altro, ma il Catania è una squadra ben impostata che può ambire a qualche posto in classifica più su, oppure come dire, rinunciataria, come sembra dai risultati, o è condannata, diciamo, alla B? Ma il Catania da una serie di stagioni si sta salvando con decoro, mi pare, e l'obiettivo credo che sia lo stesso per quest'anno, ma è l'obiettivo di tutte quelle squadre che stanno giocando per salvarsi e che già dopo 5 giornate sono facilmente individuabili, sono quelle che chiudono la classifica, e sono 7-8 squadre che se la giocheranno anche quest'anno. A proposito di Catania, io credo che sia invece un po' diverso il discorso, non Catania e Atalanta, perché erano, insomma, l'atmosfera un po' in generale, lo si diceva nei giorni scorsi, stava peggiorando dal punto di vista di ordine pubblico. Beh, ieri c'è stato uno scontro in piena regola, la notizia che l'ANSA ha appena battuto è che tutti gli ultra del Catania che ieri sera a Bergamo hanno assistito alla partita contro l'Atalanta sono stati identificati nella notte e denunciati a piede libero dalla questura dopo la rissa avvenuta prima dell'inizio della partita vicino allo stadio comunale. Sono 57 persone, tutte quelle che si trovavano a bordo dell'autobus che intorno alle 18:30 è stato preso d'assalto da una quarantina di tifosi atalantini. Da quell'agguato, leggo, è scaturito uno scontro al quale avrebbero partecipato tutti gli ultra siciliani. Dopo la partita sono stati per l'appunto scortati in questura e denunciati a piede libero. Tra gli ultrani atalantini invece sono stati identificati in 3 e per loro è già scattato l'arresto. Si tratta di 3 giovani bergamaschi di 27, 30 e 34 anni che già oggi saranno processati per direttissima. Andrea è in linea da Novara, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini, grazie per avermi richiamato. Volevo dire 2 cose veloci sul Milan. La prima è che nutro serie dubbi sul fatto che Pato sia quel fuori classe che la società ha tanto decantato. Secondo luogo, credo che la società non si sia ancora ben reso conto che questi giocatori non hanno più benzina, sia a livello psichico che fisico. Cioè ogni partita hanno praticamente 30-35 minuti di benzina in corpo, dopodiché qualsiasi squadra la affrontano vengono fuori sopraffatti alla distanza. Ecco, tutto qua, volevo una sua opinione. Ma alla distanza non mi pare molto, perché da quel punto di vista mi è sembrato invece che il Milan abbia... Se mi dice che è un po' stucchevole il gioco, che è un po' lento, che è un po' involuto, che non trova sbocchi, che la ricerca del gol è sempre più difficile, allora siamo d'accordo. Se mi dice che il Milan invece ha poca benzina, questo non mi sembra. Forse non ha brillantezza, ma non mi pare che non abbia fondo, perché ieri sera comunque ci ha provato fino alla fine, perlomeno fino a quando è rimasto in 11. Poi Flamini ha fatto una delle sue sciocchezze, dico una delle sue perché un arbitro attento l'avrebbe già espulso a Marsiglia esattamente una settimana fa, quindi sono segnali di scarso autocontrollo che per un giocatore in teoria di quella forza, in teoria di quella levatura, non sono brutti segnali per l'appunto, ma non mi sembra che sia quello il problema. Emilio da Milano scrive: vorrei un suo commento sull'arroganza mediatica dell'Inter che non fa andare in TV o in conferenza stampa gli allenatori. Ma guardi che secondo me non c'è nessuna arroganza nella fattispecie, perché è prassi comune che l'allenatore squalificato non si presenti ai microfoni, nel senso che se è squalificato non può operare a nessun titolo e a nessun livello, quindi va invece sua o il vice allenatore o un dirigente. Finora il vice allenatore, l'Inter ha cambiato formula, manda Branca anziché Baresi, non so quanto ci guadagni, ma questo è un altro discorso. Non è arroganza, è prassi costante. Se sei squalificato non vai in panchina, ma non vai neanche ai microfoni. Gianluca da Napoli, buongiorno. Buongiorno, senta, paghiamo sempre per il solo argomento, purtroppo, è José Mourinho. Volevo mettere in rilievo la sportività del personaggio, soprattutto in un episodio durante Inter Bari. Se lei va un po' a ritroso, si ricorda l'intervento di Materazzi che fa sul giocatore del Bari, un intervento proprio da codice penale, il diciamo ineffabile allenatore dell'Inter, non trova di meglio altro che da fare di stare a indirizzo dell'arbitro, quando una persona di una civiltà minima doveva soltanto mettersi le mani diciamo in faccia dalla vergogna. Lui invece ha trovato opportuno andare addirittura a protestare perché diciamo il giallo. Gianluca, ok, però mi dica una cosa, lei in queste tre settimane ha cercato altre volte di prendere la linea oppure le è venuto in mente oggi? No, ho cercato altre volte, non mai però no, proprio per mettere in rilievo diciamo la sportività, mi sembra che vogliono vincere pure diciamo così con le buone e con le cattive, mi sembra un po' questa tracotanza che affibbiavano diciamo alla Juve del 2006, la stanno un poco facendo loro, questo è quello che volevo mettere in rilievo, perché vogliono vincere con le buone o con le cattive. Grazie Gianluca, grazie davvero. Marco, provincia di Pisa, buongiorno. Buongiorno Garantini. Dica. Niente, no, ricordo che lei dice sempre che il tifo non ha malattia, paura che siamo parecchio contagiati, vediamo che ci sia un vaccino. Niente, le volevo chiedere, dalla sua competenza, io ho visto le partite della Fiorentina da domenica a ieri sera, sembravano due squadre diverse. Sì. Dipende anche dall'avversario, giustamente, però la Sampdoria è abbastanza in forma. Anche la Sampdoria sembra due squadre diverse, eh? Dipende, vuol dire che la Sampdoria comunque è una buona squadra e la Fiorentina, vista ieri sera, sembrava una buona squadra, vista domenica non sembrava una buona. Ma anche l'allenatore delle volte, cioè mettere un centrocampo come a Firenze, a Roma, scusi, senza incontristi, trovando il centrocampo più forte d'Italia, cioè non sono sbagli un po' grossolani, anche io ammetto Brandelli, però non che volte delle scelte come muto fuori. Ma Marco, io penso questo, che più il campionato è ravvicinato, cioè più si gioca fittamente, cioè più ci sono questi turni infrasettimanali e più e più viene fuori la differenza tra le grandi squadre, insomma grandi, poi non parlo tanto di qualità, parlo di quantità in questo caso, cioè tra le squadre che possono permettersi davvero di cambiare e quelle che no, perché tanto la ricetta giusta non c'è. Se lei fa un gran turnover come ha fatto Gasperini per esempio del Genoa, faccio un esempio, domenica a Verona, e perde nettamente la Chievo, l'accusa che gli fanno è quella di aver cambiato troppo. Se uno fa come ha fatto invece del Neri ieri sera, e rifaccio un altro esempio a caso, con la Sampdoria a Firenze, l'accusa che gli fanno, oppure quella che ha fatto lei con Prandelli a Firenze domenica, è quella di aver cambiato troppo, è quella di aver cambiato troppo poco. La ricetta giusta non c'è, e la verità probabilmente è che chi può permettersi davvero di cambiare lo fa con ricambi di un'altra qualità e di un altro livello. Non a caso i campionati a 16 squadre, al di là del fatto che c'erano i due punti per vittoria anziché i tre, ma non a caso il campionato a 16 era molto più equilibrato, perché intanto 16 squadre vuol dire che le 4 più scarse non ci sono, no? E già questo mi pare che contribuisca a selezionare, ma non c'è nemmeno un calendario così intensivo, e quindi abbassando la quantità è chiaro, è automatico che si alza la qualità. Però noi continuiamo invece ad andare avanti con i campionati a 20 squadre come all'estero d'altra parte, e sinceramente si fa un po' fatica a capire perché. Sentiamo prima intervallo ancora Mimmo, ha chiamato da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Una precisazione, prima l'ascoltatore di prima, che per quanto riguarda il gol di Milito, sì. Lui sarà genoano. Però l'anno scorso, se ricordo bene... No, ma mi perdoni l'anno scorso, Mimmo, la prego. Dai, cioè già, quello di prima, il napoletano, cioè, a Materazzi eravamo tre settimane fa. Se lei mi va l'anno scorso, poi cominciano a chiamare quelli che nel 51... cioè, no, c'è stata una carica al portiere. C'è stato lo stesso identico gol, sì. Del Terzi. Certo, di ritorno, certo, qua. Immagino. Però fare un'altra cosa. Ecco, bravo. Tessera del tifoso e biglietto nominativo. Una volta che c'è il biglietto nominativo, a cosa serve la tessera del tifoso? Glielo faccio spiegare al più presto possibile da Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Io sinceramente non l'ho ancora capito, per questo delego volentieri questa incombenza. Giovanni da Brescia si domanda per quanto tempo si sarebbe parlato del gol di Božinov se l'avesse segnato Totti. Ma io credo veramente per poco. Io credo che sia nell'uno che nell'altro caso si debba parlare del disastro della difesa laziale, insomma, perché quando un giocatore a centro area o appena spostato sulla sinistra, tra l'altro mancino, può colpire al volo in maniera completamente indisturbata da 7-8 col difensore più vicino a 10 metri su un cross e un'azione non particolarmente veloce degli avversari, significa che ci mancherebbe altro che un giocatore di un certo livello non sapesse colpire al volo e inquadrare lo specchio della porta da quella distanza e con un pallone di quella facilità senza il minimo contrasto di un avversario. Ieri sera, a proposito di Mancini, Raul, il grande madridista, capitano del Real, è arrivato a 524 presenze con Real nella Liga e il numero in sé dice fino a un certo punto, anche se è un bel numero, ma ha stabilito il record di presenze nella Liga della storia del club spagnolo, e cioè è il più presente in Liga, cioè in campionato, nella storia del Real Madrid. Ha superato Sanchis, il famoso celebre ex difensore, e comunque 524 partite con 224 gol, beh, insomma, comincia a essere un bottino discreto per Raul. C'è in linea Alberto, chiamato da Pavia, buongiorno. Buongiorno. Io volevo fare un analisi sul Milan e poi sentire la sua opinione. Io devo dire che inizialmente non mi preoccupava Leonardo, che pensavo il fatto che fosse affiancato da Sorti portasse quell'esperienza, per Ancelotti. Però devo dire che vedete una squadra involuta, lenta, messa male in campo, sembra che ogni partita non sappia chi scegliere, chi mettere in palco, l'impostazione tattica. Abbiamo una base che è l'unico che corre sulla fascia, si deve fare e lo lascia in panchina. Secondo me il problema è Leonardo, ma non riesco, cosa ne pensi? Ma l'altro anno il problema era Ancelotti, no? Mi risultava da una fonte discretamente autorevole all'interno della società, e in effetti è stato quel problema lì, è stato risolto. Adesso il problema è Leonardo. A me continua a sembrare che il problema deriva altrove. D'altra parte, se c'è un allenatore incolpevole quest'anno è Leonardo, perché l'ho detto, lo ripeto, ma poi è notorio, lui ha... Quando gli è stato detto quando gli è stato proposto di diventare allenatore del Milan, lui in pratica, e senza voler essere blasfemo, anzi per nulla, ha chiesto se era possibile allontanare da lui questo calice. E non gliel'hanno allontanato, anzi glielo hanno ravvicinato ulteriormente, si è rassegnato, ma che lui volesse fare allenatore del Milan proprio è da escludere, quindi responsabilità sua, insomma, mi sembra un po' difficile attribuirgliene. Antonio Milano, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Dica. Senta, tre cose molto veloci, visto che mi ha preceduto il mio carissimo fratello rossonero. E lei mi ha tolto anche una risposta, che volevo dire questo. Innanzitutto volevo dirgli a mio fratello rossonero che proprio se c'è una persona che non c'entra nulla in questo caso è Leonardo, perché Leonardo si è preso una patata bollente che non voleva. L'hanno messo lì, come dire, vai lì e vai a fare l'allenatore, di chi non si sa. Secondo, volevo dire questo, dottore, cioè onore e gloria ai giocatori del Milan che ci sono in questo momento in campo. Hanno dato tanto, hanno fatto tanto, noi come tifosi li rispettiamo, ma loro come uomini, come sportivi, dovrebbero capire che quando arriva il momento di abbandonare, dovrebbero abbandonare. Senza rancore, senza niente, cioè, perché secondo me è peggio quando una persona è perseguita e poi subisce i fischi a San Siro, perché una persona paga il biglietto e lo paga, è come nella vita, no? Le cose vanno avanti purtroppo, ci hanno dato tanto, gli portiamo rispetto. La terza? La terza, Antonio. Dottore, no, dica. La terza. La terza è questa, cioè che stiamo purtroppo diventando come i nostri cugini nerazzurri 10 anni fa, cioè che il vecchio spogliatoio motualmente comanda, perché Abate, Antonini, cioè questi giovani, buttiamoli in campo, arrivare decimi in classifica, arrivare decimi, undicesimi o quinti non cambia nulla. Io come tifoso rossonero, tesserato a Milan da anni, sono disposto che Milan arrivi anche quintultimo. Bisogna vedere Antonio se sono disposti tutti a questo ragionamento, se è disposta la società. Io credo che sia un po', e soprattutto credo che sia un po' prestino per fare questi discorsi così definitivi, no? Così disfattisti. Per carità, i segnali che si vedono non sono particolarmente incoraggianti, però non c'è dubbio che i senatori stiano facendo la loro parte anche fuori dal campo, questo è ovvio in una squadra così collaudata e così carica di gloria come ha ricordato lei. Il problema è che per l'appunto fino all'anno scorso c'era uno che sembrava molle, no, che qualcuno voleva far passare per molle, che invece comunque questa gente quando era ora alzava la voce e l'alzava anche magari di parecchio, e adesso evidentemente la gestione è meno forte, forse anche meno credibile, non per colpa di Leonardo, lei ha detto bene, ma per prima di buttare via il bimbo con l'acqua sporca, insomma, prima di arrivare a questo nichilismo, aspettiamo che anziché la quinta giornata se ne sia giocata una con un numero un po' più grosso. E proiettiamoci su stasera, ascoltando la vigilia breve, in due brevi contributi dei due allenatori di Genoa e Juve, cominciando da Gasperini. Quando si vincono queste gare contro queste grandi squadre, poi rimangono nella mente dei tifosi, dei giocatori, quindi sono appuntamenti che hanno un sapore maggiore, che rimangono anche, aiutano a dare spessore alla stagione, all'annata. Certo che insomma, aver vinto l'anno scorso ci può dare un pizzico di fiducia in più, ma nient'altro. E sentiamo adesso invece Ferrara, brevemente. Ma sappiamo che è una squadra che sta bene fisicamente, che conosce a memoria gli schemi di Gasperini, facendo secondo me vedere un ottimo calcio. Che tra i due non corra tra Ferrara e Gasperini, non corra un gran buon sangue da tempi recenti, cioè da quest'estate, è dimostrato da qualche ritaglio che ho con me, che stamani la stampa ha ricordato un paio di settimane dopo la scelta di Ferrara per la panchina della Juventus. Ricorderete che i candidati erano quattro, almeno in teoria, cioè Gasperini, Spalletti, Antonio Conte e Ferrara. Il commento di Gasperini alla nomina di Leonardo e di Ferrara sulle panchine di Milan Juventus fu: è un cambiamento di rotta, una svolta che non possiamo ancora sapere che effetti avrà, non hanno esperienza, ma società come Juve e Milan non fanno nulla per caso. Nasce la figura, disse Gasperini, del tecnico uomo di società prima che di campo, e se sia una scelta azzeccata lo vedremo. Per me non è un fatto positivo, perché la figura dell'allenatore che ha fatto la gavetta, che ha lavorato duro per emergere, sta perdendo valore. Credo che prendere allenatori, aggiunse ancora Gasperini, senza esperienza e metterli sulle panchine di grandi squadre rappresenti una sconfitta per la nostra categoria. Adesso Ferrara, che aveva preso buona nota di quelle dichiarazioni, ma che non aveva mai molto particolarmente digerite, insomma, sta cominciando a dire che probabilmente tutto questo nasce dall'invidia, perché la panchina della Juventus è la più ambita, e quindi è normale che chi non c'è arrivato si è espresso in questi termini. Tocca a Giovanni da Catania, buongiorno. Buonasera dottore. Dica. Allora, io volevo rispondere al mio amico di Catania, che volevo sapere se il Catania quest'anno si poteva salvare o no. La situazione a Catania è questa: il nostro presidente è un signor presidente, però ha la mano un po' corta nel prendere il portafoglio. Non ha comprato per esempio un grosso attaccante, che qui nella piazza potrebbe essere grosso, e ha fatto scappare il dottor Zenga a Palermo per questioni finanziarie. Ora questo nostro allenatore che abbiamo ora, poverino, è una brava persona, però non è nella piazza della Serie A, ha allenato squadrette di Serie C o D addirittura. Cioè, che competenza può avere? È come mettere Fisichella con la Ferrari, non è abituata a portare la Ferrari, giustamente avrà bisogno del tempo, ma il Catania questo tempo non lo può avere, perché si deve salvare. grazie Giovanni. Le sarà grato il catanese di prima, che lei aveva sentito, era assai meno documentato, perché il suo era soltanto un affetto sentimentale di vecchia data. Mauro Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo fare due piccole considerazioni. La prima riguarda la testa del tifoso. Non conosco bene l'argomento, però il fatto stesso che gli ultras siano contrari mi fanno essere istintivamente a favore. Anche a me, capisco che sia un 2 più 2 un po' semplice, ma io che sarei tendenzialmente contrario, rispetto a questo ragionamento, insomma, lo condivido. Il secondo che condividerà un po' meno. Allora, sono d'accordo con lei per quanto riguarda il gol di ieri dell'Inter, che era difficile da vedere, col fermo immagine, era di incrocio e tutto. Però obiettivamente da 3 anni a questa parte che ogni volta che c'è un dubbio c'è il fischio a favore dell'Inter. Questo è una cosa che è sotto gli occhi di tutti. Ogni volta no, a larga maggioranza sì, sono d'accordo con lei, però non mi sembra un argomento forte in una... all'indomani in una partita che l'Inter stava già vincendo per 1-0, che, insomma, che quel gol, giusto o sbagliato che fosse, era veramente difficile, ma proprio difficile, vero, da vedere, e al termine della partita che l'Inter ha completamente dominato, che ha vinto con 2 gol di scarto perché a un certo punto si è fermata, insomma, per manifesta inferiorità altrui. Quindi mi sembra fiato sprecato, no? in una giornata come questa. Il consueto ripasso di storia con Nicola Filippone. Sembra ieri. 24 settembre 1961. Prima apparizione nel campionato di Serie A per Dino Zoff. Il futuro capitano della nazionale campione del mondo difende i pali dell'Udinese, impegnata sul campo della Fiorentina. Non è un esordio semplice per il 19enne Zoff. I viola, trascinati da Amrin e Milani con una doppietta a testa, si impongono per 5-2. Nonostante i gol subiti, il giovane portiere friulano non perde però la considerazione del tecnico Luigi Bonizzoni, che 2 anni dopo lo vorrà con sé a Mantova, la tappa della svolta nella carriera di Zoff. E beh, Zoff che prende 5 per all'esordio, io ne ricordavo 6 tra l'altro, ma se Filippone dice 5, sono certamente 5, è una curiosità non da poco. Lady ha chiamato da Brescia, buongiorno. Buongiorno Gansi. Buongiorno. Senta, qualche giorno fa lei ha espresso perplessità su un giocatore dell'Inter, Eto. Vorrei sapere, dopo 2 partite, cosa ne pensa adesso? Un attaccante che segna e poi difende. Cosa non le piace? Ah, Dieto, non è il mio genere, insomma, preferisco altri attaccanti con altre caratteristiche, ma questo valeva già a Barcellona, ma questo non significa mica che Eto'o non sia un grande giocatore, è una questione di gusti. Pensi che a me non piace nemmeno Cristiano Ronaldo, se quindi capisce che... Ma sto parlando di un fatto estetico, di un fatto di gusto, cioè è come uno a cui piace un cantante anziché un altro, un pittore anziché un altro, che vuol dire non piace o non ne riconosci la grandezza, significa che il tuo gusto è diverso. Tra Ronaldo e Messi io potrei fare la fila di ore per prendere un biglietto, a patto che non ci siano tornelli e tessere speciali, per andare a vedere Messi, non la farei per andare a vedere giocare Cristiano Ronaldo. Ma sono gusti, non sono giudizi di qualità, perché non si può discutere un giocatore come Eto'o, evidentemente. Roberto, Reggio Emilia, buongiorno. Roberto, mi spiace, ma non c'è linea. Proviamo a richiamarla. Perché mi spiace averla tenuta in attesa per tanto tempo. Luigi, provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno, caro Steve. Dica. Ascolti, io volevo parlare del Milan. Sì. Prima di tutto sono un tifoso e sono molto deluso. Se lei fosse stato molto entusiasta sarebbe stata una notizia. Ascolti, volevo anche sapere da lei, per sanare il bilancio, non bastava tagliare il Milan Lab e tagliare gli introiti di Gagliardi e signor Braida, visto che ultimamente stanno facendo delle cavolate una dietro l'altra? Evidentemente non bastava. Non bastava, lui. Evidentemente non bastava. Non bastava. E poi probabilmente un amministratore delegato e un direttore sportivo o generale ci vogliono in una società. Ho capito. Vorrei sapere che cosa prendono questa gente qua. Ma io credo sempre meno di quello che guadagna un rincalzo. Comunque, Luigi, non lo so, io sinceramente sono sempre un po' disarmato rispetto a questi interventi. Io credo che in 22 anni qualcosina di buono abbiano combinato, no? Hanno commesso molti errori, se torniamo indietro a... non mi ricordo mai perché ha sempre un cognome, quello che mi piaceva da morire, ha un cognome che confina molto con un personaggio, bisogna stare attenti, mi sembra che fosse Reitzinger, un terzino, ecco, Reitzinger mi raccomando, e da lì a Bogard, eccetera, insomma, ho dei ricordi abbastanza divertenti in quel ramo, e poi chissà quanti altri, però in compenso hanno anche portato un sacco di campioni. Quando poi si stringono invece i cordoni della borsa e un manager è, tra l'altro, ben abituato, cioè che si è sempre potuto permettere di scegliere il meglio o quasi il meglio, è costretto a darlo via, il meglio, come è successo quest'anno, bah, insomma, prendersela con i manager sinceramente mi sembra un po' tanto demagogico, detto tra noi. Sentiamo una voce di campo ancora, per esempio quella certamente di umore diverso rispetto a quella di domenica di Prandelli. La partita che abbiamo disputato è stata veramente di alto livello, la dimostrazione che se una squadra va in campo, che è ordinata, che sa cosa deve fare, i movimenti sono alcuni tempi giusti, e quando la pallano gli altri rincorre e contrasti, io penso che puoi perdere, però non come ha fatto Roma. Jovetic ha fatto un'ottima partita, così come tanti altri giocatori, abbiamo dato la possibilità a lui di fare un gol molto bello, con una bellissima azione, è stato bravissimo Marchionne, è riuscito a trovare la posizione giusta soprattutto nel secondo tempo. Nel primo tempo facevamo un po' fatica a trovarlo, se lui riesce a trovare quella posizione verticale Girardino può diventare veramente un giocatore importante. Bella partita comunque quella di ieri sera della Fiorentina, senza alcun dubbio, anche se mi pare che nei commenti poi molti abbiano dimenticato il ruolo determinante di Frey nel primo quarto d'ora, abbondante, perché Frey ha salvato da 2 a 3 gol fatti o quasi fatti da parte della Sampdoria, ed è chiaro che la partita sarebbe girata ben diversamente. Roberto ha chiamato da Verona, buongiorno. Buongiorno, sono tifoso del Chievo. E volevo sapere da lei, ha visto le recenti partite, anche quella di ieri, mi sembra che il Chievo abbia giocato bene. Cosa manca a una squadra come il Chievo per quel gradino in più, per giocarci l'Europa, diciamo, ma senza tanto pretendere? Credo che manchi molto, Roberto, sinceramente. Manca parecchio sul piano della qualità, ma è inevitabile che sia così. Cioè io... anche questi sono interventi un po' disarmati. Io credo che un tifoso del Chievo ha l'idea di giocare in A per l'ottavo o il decimo campionato, insomma qualcosa del genere, sia pure con uno di intervallo di retrocessione, credo che dovrebbe darsi un pizzicotto tutte le mattine solo per il fatto che la sua squadra, il Chievo, cioè è in Serie A. Se poi invece comincia a domandarsi cosa serve per il salto di qualità, ho paura che sia difficilino. Il salto di qualità sarebbe una maggior qualità per l'appunto, credo in tutti i reparti, ma il calcio che fa il Chievo è un calcio splendido e credo che questa sia la sua cifra e il suo modo di essere. Grazie Fabio Cantadoni in regia, Flavio Suardi in redazione, Giornale Radio.